credi di sé, col senno di poi. La colpa la prendi tu e la togli un po' a noi. Lei era bella come vuoi tu, che non potevi neanche guardarla un secondo di più. Era bella così, tra deboli eroi. Era bella che ci morivi a sfiorarla, lo sai. È andata così, come vuoi tu. Almeno mi dici se adesso sorridi di più. Ooh.